la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Limpido e generoso, Saverio La Ruina al Teatro Piccolo dal 13 dicembre con l'opera Uomini e Femmine. È un intellettuale che ha trovato nel teatro un canale attraverso il quale porgere agli altri temi che riguardano un po' tutti. Le sue opere teatrali, sebbene ambientate al sud, diventano di fatto un momento di riflessione globale. La Ruina è infatti conosciuto e rappresentato in mezza Europa, è stato premiato, seguito da una certa critica, ma amatissimo soprattutto dal pubblico. In fondo Saverio non smette di parlare a quella provincia dalla quale proviene. Mascolo e femmina, cioè con l'accento sulla i, femmina. Siccome uso un dialetto, devo dire, poi ancora più leggibile rispetto ad altri spettacoli che ho fatto in... utilizzando questa lingua, insomma, di questo territorio calabro-lucano di confine. Però effettivamente, sì, insomma, quella, la lingua che uso è femmina, allora ho detto, vabbè, azzardiamo. E di che cos'è che parli in questo spettacolo? Come si struttura? Guarda, la condizione, la situazione di base è un uomo che va a fare visita al cimitero alla mamma morta e niente, gli va praticamente tutti i pomeriggi a trovarla, in qualche modo si è anche organizzato per con la sua sediola, con le sue cose, e ha queste 2-3 ore ogni giorno che passa con lei e racconta delle cose. E in realtà poi un punto che vuole toccare è quello di confessare la sua omosessualità ad una mamma che chiaramente ha capito, questo esce fuori anche dal suo racconto, ma che non è stato mai detto, diciamo, in modo chiaro, dando nome alla cosa, e questo rimane un rimpianto in un rapporto così profondo che non ha mai, diciamo, sviscerato questo aspetto. E lui in questa occasione, diciamo, poi parla sempre del più e del meno, di quello che gli succede nella giornata, tanti piccoli dettagli, e poi, diciamo, riesce a trovare il modo e l'occasione per introdurre questa confessione. Da lì in qualche modo ripercorre questa vita altra che la mamma, diciamo, non ha mai conosciuto. Perché poi aprirsi e dirlo, questo tema qui è veramente un tema molto forte, molto importante, perché uno dice, ma potresti anche non dirlo, tanto puoi vivere lo stesso, e invece non è vero, è proprio affermare se stessi dirlo. Esatto, esattamente. E tu perché hai lavorato su questo testo? Cioè, lo sentivi molto importante, cioè doveva guarda, essere esplicitato? Guarda, diciamo, l'idea è nata da un coinvolgimento di Rodolfo Di Gianmarco, critico di Repubblica, che organizza ogni anno questo festival Garofano Verde sui temi a tematica omosessuale. E niente, per cui mi aveva contattato già qualche anno prima, quest'anno, il 2015, mi ha proposto di fare appunto un lavoro sul tema, e a quel punto così era anche una tematica che poi mi sta anche a cuore e che mi piaceva toccarla, però l'ho toccata dal punto di vista diciamo di un gay di una certa età che vive in provincia, quindi non l'intellettuale che porta avanti mare delle cose, ma chi vive sulla propria pelle, comunque, insomma, nel tempo affina anche una sensibilità sul tema, quindi una persona semplice. È vero, perché questo è un altro grande tema, cioè la provincia e la grande città, le diversità profonde tra quello che succede e va veloce in una grande città e quello che arriva lentamente nelle piccole province. Certo. Poi volevo chiederti anche questo, cioè tu comunque sui temi sociali della comunicazione, della verbalizzazione, dell'affrontare appunto anche la violenza interna nelle relazioni, così hai lavorato tantissimo a teatro, hai portato tantissimo, sempre molto, questo tema del nucleo, della famiglia, della sessualità intesa sì, proprio anche come relazione. Sì, sì, certo, voi diciamo Dissonorata, l'aborto, sì, e anche Polvere, lì... diciamo c'era la condizione femminile da Dissonorata all'aborto, dove in qualche modo abbiamo una donne all'interno di una società patriarcale dove, come dire, ancora certi diritti non erano neanche stati diritti, insomma, vigevano ancora delle situazioni, che ne so, anche in Dissonorata il fatto che anche il delitto d'onore, poi c'è voluto l'81 perché fosse eliminata la clausola che in qualche modo quasi depenalizzava totalmente il, diciamo, il sì, l'uccisione, l'omicidio per gelosia o comunque per l'onore, cioè per il delitto l'onore. D'onore in qualche modo. Tu sei sempre stato molto amato, soprattutto da un certo tipo di pubblico. Hai citato anche un giornalista che ti ha chiamato di Repubblica. E questo tema qua del mondo intellettuale che ti guarda, che ha molta attenzione, quanto lo senti pesare su di te? Vuoi dire quanto il mondo intellettuale... Ti in qualche modo ti condiziona, se ti condiziona. Ma questo dici artisticamente? Artisticamente, o dici... sì. Ma guarda, devo dire che poi non mi pongo il problema del destinatario, nel senso che, per dire, insomma, i miei testi quasi sempre a un certo punto li leggo a mia madre, no? Che è una persona, diciamo, che poi non... come dire, non ha fatto un percorso di studi, quindi una persona anche molto semplice e non avrà sovrastrutture, per cui, come dire, o ti segue o non ti segue, cioè basta che magari una minima cosa, un minimo momento di noia e si allontana subito da quello che stai facendo. Quindi faccio un test su di lei, ma perché? Perché per me è importante in qualche modo, certo, non è che abbassi il livello della scrittura o del lavoro al fatto che ti capisca quello, chi a teatro, diciamo, non è un abitué, però mi piace che anche lì ci sia una leggibilità di quello che scrivo, di quello che porto in scena, però in qualche modo che esca fuori anche, come dire, una lettura del contemporaneo, delle domande che possono riguardare, insomma, l'uomo e la donna universalmente. Diciamo, quello, quindi l'intellettuale in qualche modo poi ti legge anche delle cose a un livello, diciamo, più sottile, e mi piace anche che questo in qualche modo avvenga. Ed è un confronto, cioè per me è un confronto importante. Sì, perché poi, diciamo, rappresenta proprio il tema del teatro nel senso vero, cioè nel senso che è proprio il momento in cui si condivide e poi ognuno legge a modo proprio, gli arriva in una maniera diversa quello che tu metti in scena, quello che tu scrivi, quindi anche questo è interessante. Certo, diciamo, la cosa, ecco, una cosa che penso non mi succeda perché parto veramente diversamente nella costruzione dei lavori è quello in quanto di compiacere, no? Perché sì. Per dire anche un certo, diciamo, una fascia intellettuale in qualche modo su certi temi, insomma, basta in qualche modo avere delle posizioni critiche su determinate cose, toccare certi argomenti e in qualche modo compiaci un punto di vista intelligente sulla cosa e in qualche modo, come dire, puoi averne in qualche modo l'adesione. Anche lì mi piace anche riuscire in qualche modo ad entrare anche politicamente ed emozionalmente e anche spiazzare magari un punto di vista, cioè non fare un lavoro per gli intellettuali in qualche modo. Però la cosa che poi mi sembra che sia succeda fondamentalmente è che se un lavoro, e questo io di questo non lo so, ci provo ogni volta nella scrittura, se c'è una diciamo un'onestà di fondo nel lavoro, se c'è un'autenticità, se non è barato, allora questa cosa in qualche modo veramente, non so per quale motivo, ma riesce a passare in modo trasversale. E tra l'altro, per dire, proprio a Milano è una città dove come dire, a me piace molto il pubblico milanese, no? Per dire, ci sono anche aspetti ironici nel testo che sono, se vuoi, anche un po' legati a certi aspetti del sud, ma non solo, chiaramente, ma che chiaramente tu porgi una lingua che non è quella, diciamo, milanese, eppure molte ironie, anche molto sottili, addirittura vengono accolta ancora di più, forse per il livello, il grado di attenzione che mette il pubblico su una lingua anche diversa, che poi mi stupisco di come reagiscono con ilarità a delle ironie che magari, che ne so, al sud in certe situazioni magari passano così, no? Quindi è un pubblico anche molto attento, molto molto attento. C'è da dire anche che di milanesi veri a Milano ce ne sono, come dice, per cui... Sì, quello sì, però mi ricordo una signora milanese che venne in camerino a Milano, mi ricordo come se con l'aborto dissonorata, quindi un dialetto soprattutto dissonorata anche abbastanza stretto, e mi disse... Ma lei sa, però una milanese pura, ma lei sa che dopo 5-10 minuti la sua lingua è diventata la mia lingua? Che bello, no? Bellissimo. Questo è, insomma, no, è, cioè, anche perché poi, cioè, io mi pongo anche nell'ottica del fatto che sono io lo straniero, no? Quando uso una lingua in qualche modo, non è quella ufficiale, e vengo... a Milano come in altri posti, se vedo qualcuno anche del pubblico inizialmente mi guarda con l'occhio perplesso, so che devo conquistarlo, insomma, cioè che ha ragione lui, quindi dico vabbè. E questa cosa in modo, diciamo, abbastanza naturale poi determina non so che cosa, perché poi il testo è sempre quello, probabilmente un qualcosa che si aggiunge, che accentua una necessità di farsi capire, che poi a un certo punto di questa perplessità man mano si scioglie, e addirittura a volte vedo anche proprio la testa che mi fa sì, quindi proprio che è entrato nella cosa. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Sono Giugia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giugia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati, l'ospite di questa sera è Saverio La Ruina, drammaturgo, attore, pluripremiato da solo e con il suo gruppo Scena Verticale. Nato a Castrovillari, Saverio La Ruina ha dato voce a tantissime storie del Sud e ha messo in scena soprattutto temi di grandissimo respiro, ha permesso e ha dato coraggio e forza a decine di ragazzi nel caso dei temi relativi all'omosessualità, o alle donne nel caso relativo proprio alla sessualità. Uno dei gli esempi che vi possiamo citare è l'opera Disonorata, sempre appunto di La Ruina. Dalla prossima settimana è in scena per la prima volta al Teatro Piccolo di Milano. La storia di questo intellettuale è simile a quella di Tornatore, a quella che Tornatore racconta il nuovo cinema Paradiso, ed è lo stesso La Ruina a raccontarla in questo modo. Sentiamo. Ma veramente casuale, io i miei a Castrovillari, che è un paese, una cittadina di 25.000 abitanti che è al confine con la Basilicata, quindi questo territorio, diciamo, del Pollino, questa montagna che divide appunto Calabria e Basilicata, i miei hanno avuto un background contadino, e poi hanno, diciamo, anche per far vivere in un posto dove ci fossero le scuole e via dicendo, vennero a Castrovillari, io avevo 4 anni, e niente, loro presero un bar, per cui io da piccolo ho vissuto in questo bar. È una cosa che era abituale, siccome all'epoca a Castrovillari c'erano 4 cinema, tra l'altro 3 enormi, e che all'epoca, appunto negli anni 70, erano si pagava poco, non so, c'era tantissima gente che andava al cinema, e io andavo sempre anche a portare i vassoi con le bibite all'operatore, al cassiere, al bigliettaio e via dicendo, per cui ero spesso al cinema, e veramente tipo Nuovo Cinema Paradiso, spesso e volentieri questo stava ad incollare le pellicole, bere intanto la birra, io che aspettavo, e mi mettevo davanti al buco della cabina e guardavo questi film. E poi chiaramente da lì andavo spessissimo, per cui è cominciato una fascinazione per il cinema, devo dire, soprattutto. Che bello. E poi da lì invece ho detto, ma allora io voglio fare anche, voglio essere anch'io da quella parte lì. È stata una cosa veramente istintiva, perché avevo 10 anni e già pensavo all'attore, no? Però l'attore di cinematografico, perché di teatro non ne passava. Anzi, devo dire che la prima cosa che poi ho visto al teatro mi ha talmente annoiato, che però non osavo dirlo, no? Perché chiaramente è un evento culturale, io ero adolescente, chiaramente non potevi, sembrava di dire... mentre tutti, no, facevano grandi discorsi, poi appunto intellettuali, io, allora sì, no, infatti, bello, bello, in realtà mi ero annoiato, questa roba non mi interessa. Poi pensando appunto all'attore, cercando, allora, da dove comincia l'attore, dico, ai, comincia dal teatro, dalle accademie teatrali, ho fatto, porca miseria, mi tocca. E a quel punto che, allora, posticipiamo il discorso cinema, post scuola di teatro. Io ho preso il DAMS a Bologna e da lì ho fatto con la scuola di teatro della Grande Garrone, la scuola di teatro di Bologna, e facendo la scuola cominciavo ad andare chiaramente molto di più a teatro, e lì ho scoperto degli spettacoli che mi colpirono profondamente, ma per dire anche, cioè una cosa mi ricordo, Nemico di classe fatto dall'Elfo alla Soffitta, che poi è il teatro proprio che utilizzavamo anche noi come scuola di teatro, e vedevo cose, ah ma cavolo, ma allora c'è un teatro che mi tocca profondamente, quindi naturalmente mi sono ritrovato per fare teatro, e poi non vivendo magari a Roma, anche il cinema in qualche modo metto da parte, anche se è comunque un grande amore. Sì, e poi comunque un attore di teatro, diciamo, più facilmente forse riesce a passare al cinema avendo avuto tutta questa esperienza, o no, magari mi sbaglio. Sì, no, io penso che diciamo l'attore di teatro ha bisogno di praticare il cinema, perché essendo comunque un medium che lavora su un'intimità molto sfumata e fatta di piccole cose, mentre a teatro in qualche modo il fatto di ingrandirle viene percepito come innaturale, perché c'è la distanza, anzi diciamo il pubblico può maggiormente vedere quello che accade, quindi è un pochino più grande quello che accade a volte appunto a teatro, e quindi una certa pratica aiuta anche ad alleggerire questo grande, farlo diventare piccolo. Però in questo c'è un'attitudine ad essere anche più eclettici, mentre non passando per il teatro ci sono anche degli attori che non l'hanno fatto, a volte sono anche relegati in certi ruoli perché è quello che è più vicino al loro essere appunto nel quotidiano. Poi in qualche modo poi piace anche anche una recitazione empatica mi allontana in qualche modo, quindi c'è anche questo rapporto con l'intimità, e questi spettacoli, a cominciare di Sonorata, appunto l'aborto italianesi, essere la struttura che avrà anche mascolo e femmina, hanno un'intimità, cioè quasi sono delle confessioni in qualche modo. E parlano proprio di un'Italia che molti, forse pur venendo dal sud, non conoscono così a fondo. Ecco, del sud, secondo te, si parla poco? Per certe cose se ne parla anche molto, e soprattutto poi sono le cose comuni che si fanno, no? Pensando dal punto di vista politico, diciamo, non c'è stato mai è come gli interventi che vengono fatti in Africa, no? Che magari vengono fatti ma che non cambiano nulla, quindi c'è qualcosa di sbagliato, e un po' tutte queste casse per il mezzogiorno, almeno dal punto di vista politico, hanno creato situazioni di questo tipo. Insomma, c'è sempre uno sfruttamento, uno sfruttare delle corsie che si creano, diciamo, di denaro, e poi alla fine alla gente comune nella vita, nonostante tutto, cioè pensa allo statuto speciale della Sicilia, che in qualche modo, no, girano talmente tanti soldi, ma nella vita quotidiana delle persone non cambia nulla, compreso l'occupazione, quindi è proprio il meccanismo che va cambiato assolutamente, oppure appunto non intervenire proprio, e forse con atto di orgoglio ognuno prova a costruire comunque da sé delle cose al di là degli aiuti possibili. Quindi tu sei al piccolo, e poi come funziona? Andrai in altri teatri o...? Sì, poi dopo Milano, ci sono rimane grandi città, poi ci sarà Roma da fine gennaio, inizio febbraio. Comunque poi alla fine, come dire, ha il tema dell'omosessualità, maschilettiam, però è anche un modo veramente parlare dell'amore, sì. Perché quello è poi, insomma, cioè nel momento in cui non hai non hai barriere ideologiche o religiose che veramente hanno combinato disastri enormi nelle vite degli omosessuali, perché poi alla fine comunque un omosessuale non toglie niente a nessuno, no? Sì. Pensate che paradosso incredibile, e invece paga un prezzo molto alto, ancora oggi lo vediamo, insomma, anche giovanissimi nelle scuole, comunque a volte vere e proprie tragedie in ragione di cosa, no? E poi dici, con questa grande contraddizione, dove dall'altra tutto questo dolore che è legato ad un atto d'amore, alla fine proprio la Chiesa, che dovrebbe fare dell'amore comunque la regola fondamentale, alla fine è stata quella che ha creato i disastri maggiori, insomma. È tutto per questa puntata, ci fermiamo qui. Se volete potete riascoltarci in podcast, potete venire a trovarci, l'indirizzo Facebook è Radio 24 trattino. La prima volta, buona serata a tutti da Cristina Carpinelli.